scrisse qui Carlo? Il suo cordoglio nulla pietà mi reca. Io leggo il foglio. Ma il foglio è questo? E tanto con un atto si vede Cesare ardisce. Perduta l'alma mia se s'avvilisce. Come con le ciglia contorni e bianco il volto. Ah, tradimento è questo! Il mio rossore nasce sol dal mio sdegno. Ardi rancore. Leggasi il foglio. Leggi! E poi non l'error mio, ma il tuo correggi! Caio infelice al nido la sua salute! Caio di tella amante! Compisci il tutto e poi risposta avrai! Franco sveglia Dio cor, quanto più sai! Già che campo non ho del mio disprezzo chiederti la cagione, almen ti parli questo foglio per me! Dimmi che feci c'abbandoni il mio amor per altro amante. Ma seppure il mio duol non può cangiarti per non farmi sentir sì reo tormento, svelami almeno il cuore e son contento. Dunque infedele tu sei, Caio rivale, io son tradito. Oh, che non era Roma se te la scivo e peso il cieco appello. Troppo indegno il tuo lavoro se incontro all'amor mio così fa bella. Qual difesa puoi far? Parla che faccio. All'inganno mio cor tiranno, ascolta. Tu sai le promesse che togli intesi da sua bocca il racconto. Or sappi ancora che ben certo il fin che dal tuo amante ella ha donato il cuore in questo foglio seco si taglia ed in mia man lo diede perché gli scrivo anch'io. Accio vedendo l'infida donna sua una tua favorita il gran comando pentita del suo errore per ubbidirmi torni il primo amore. Tanto è ver mio bene.